l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, nostro viaggio settimanale all'interno del continente. L'Europa da Radio 24 viene raccontata quotidianamente nei GR, negli appositi spazi, anche all'interno del sito euronet.eu, che è questo network al quale apparteniamo, e anche noi ogni sabato siamo qui a portare il nostro contributo. Cerchiamo altri punti di vista, altre notizie, altre sfumature della nostra Europa. I vostri messaggi al 349-238-6666 se volete mandare suggerimenti o contributi sugli argomenti che andiamo a toccare. Gli argomenti che andiamo a toccare li pubblichiamo anche in diretta sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, dove carichiamo minuto per minuto i video, gli audio, insomma tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a sfiorare. Ci siamo, è tutto pronto, sarà una partenza un po' trafficata, una partenza dal Galles, da questa cittadina dove avere l'automobile è proprio un problema. Juliet Morgan completes a final round of Aberystwyth last Tuesday after spending almost a decade on the beat. Since then, what some might expect to be a motorist's dream has quickly turned into a traffic nightmare for many local business owners. È una cittadina universitaria, si chiama Aberystwyth, è già considerata una delle cittadine più trafficate d'Europa, ma da un anno mancano i vigili urbani, da un anno è il caos, da un anno non ci sono le multe e quindi l'automobilista si sente un animale libero in questa giungla d'asfalto che è il traffico cittadino, ma gli abitanti non ne possono più, stanno raccogliendo firme, vogliono le multe. Sì, è una richiesta, è un appello, per favore fateci le multe. Per capire quello che sta accadendo abbiamo invitato in diretta Roberta Sartoni, che è un'assistente di lingua italiana all'Università di Aberystwyth, dove vive da 8 anni. Roberta, hai l'automobile? Sì. Sì, okay. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao. Ciao Roberta, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Di dove sei tu? Da dove provieni in Italia? Da Bologna. Da Bologna, ok. Quindi sei abituata a usare l'auto o sei più da bicicletta? A Bologna ero più da scooter. Da scooter, ok, un buon compromesso. Allora Roberta, abbiamo letto questo articolo, insomma, che fotografa una situazione tra il surreale e il demenziale, perché insomma ci sono anche aneddoti divertenti legati a questa cittadina senza vigili urbani. Qual è la verità? Cosa sta accadendo? Ma la verità forse è meno drammatica di quella dipinta dagli ultimi articoli. Sapete che la polizia ha deciso per problemi economici di interrompere questo servizio. In realtà non sono proprio vigili del traffico, ma controllano solo le macchine in sosta. Ho capito. E l'ha passata al comune, anche affidandosi a una legge del 2004 che pare consenta al comune la gestione di questo servizio. Però il comune, per un problema di permessi, le autorizzazioni che deve richiedere, pensa che non riuscirà appunto a gestire il servizio prima di 12 mesi. Quindi al momento non ci sono vigili. Non ci sono multe. Ho visto che i cittadini, insomma, in un primo momento hanno quasi festeggiato una sorta di traffico selvaggio, adesso invece c'è una marcia indietro, nel senso che l'assenza di regole non piace. No, non piace. All'inizio hanno festeggiato anche perché questi vigili non hanno una reputazione particolarmente buona, non sono considerati molto amichevoli, non solo perché fanno multe che devono essere pagate, ma appunto anche per un atteggiamento un po', insomma, poco cordiale. Okay. Però è ovvio che quando la gente non usa il buon senso e si approfitta di... Ma è in certe libertà si possono creare dei problemi. Tu lì utilizzi l'automobile? Io veramente poco, okay. Perché Aberystwyth, tra l'altro, è una città molto piccola, il centro è facilmente è molto facile a piedi, insomma, girare il centro. Ma infatti viene descritta un po' come Genova, no? Schiacciata tra le montagne e il mare, con sì, queste sì, con questi vicoli. Sì, schiacciata tra le colline e il mare. Le strade sono molto piccole, a volte in alcune strade è possibile parcheggiare appunto su un lato della strada, e questo consente, non consente alle macchine di di andare nelle direzioni opposte, quindi è molto facile doversi, è molto comune doversi a volte fermare per far passare la macchina che viene nella direzione opposta. Quindi tu ci stai dicendo che non hai mai approfittato di questa situazione, non hai mai parcheggiato in doppia fila, mai fatto un contromano, mai un divieto di sosta? Ma il problema è che queste cose avvenivano anche prima, non è che improvvisamente l'anarchia sia caduta sulla città, appunto perché è molto difficile parcheggiare in centro, è molto comune vedere a volte macchine in doppia fila, soprattutto per le persone che devono consegnare, fare consegne nei negozi e cose di questo genere. Non credo che la situazione sia diventata così drammatica all'improvviso. Bene, insomma, penso che le persone che forse sono più diciamo disturbate da questo, da questa situazione, siano i negozianti del centro, che sostengono che ovviamente c'è meno ricambio dei clienti, perché chi magari lasciava la macchina parcheggiata per pochi minuti la lascia per okay. Tempi più lunghi. Insomma, un esperimento involontario, ma così apparentemente fallito, inconsapevole anche adesso, insomma, troveranno un accordo e la situazione tornerà normale, anche se poi non è così anormale. No, la cosa curiosa è che gli abitanti sembrano quasi infastiditi dal fatto che la notizia abbia suscitato questo clamore anche in tutta la Gran Bretagna e anche all'estero. Insomma, perché non si credono così. Ok, quindi il traffico delle informazioni ha fatto più danni del traffico reale. Grazie davvero, Roberta, per averci fotografato lì la tua quotidianità, e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Ciao e buon sabato. Grazie anche a ciao, voi. Ciao. Europost-it. Visitare il Galles fa vincere. Volete vincere una vacanza da 1.000 sterline? Provate a iscrivervi alla newsletter del sito dell'ente del turismo del Galles. Oltre a tante informazioni, idee e notizie utili, il sito mette a disposizione una serie di pacchetti vacanza per portare tutta la famiglia in questo angolo di Regno Unito tutto da scoprire. Potete scegliere tra un tour romantico in coppia, qualche giorno di relax in cottage con la famiglia o una vacanza avventurosa. Basta scrivere il proprio indirizzo email e sperare di venire estratti. Incrociate le dita e andate su visitwales.co.uk. Stjórnlega ráð hefur aðsetur við Ofanleiti þar sem háskólinn í Reykjavík var til húsa áður en hann flutti í Nauthólsvík. Á miðvikudögum kynna nefndirnar þrjár hugmyndir sínar fyrir öðrum fulltrúum og við fengum að fylgjast með Questa è l'altra Europa. Quello che state ascoltando è un estratto da un'inchiesta islandese che abbiamo già caricato, come tutti i nostri audio e tutti i nostri video, nelle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, ma proprio di Facebook e di altri social network ne andiamo a parlare per quello che sta accadendo in Islanda, dove c'è nata una riforma costituzionale, una sorta di aggiornamento, e l'apposita commissione sta lavorando in stretto contatto con tutta la popolazione. Ogni decisione, ogni proposta, ogni opinione viene rilanciata immediatamente su Twitter, su Facebook, su tutti i social network, per raccogliere poi le opinioni, le risposte, le sensazioni della popolazione. Parliamo di una popolazione di 320.000 persone, dove due terzi degli abitanti possiede un profilo su Facebook in Islanda, quindi c'è proprio un contatto diretto, la rete è pane quotidiano. Per farci raccontare il tutto abbiamo invitato uno dei volti più noti della televisione islandese, un'amica dell'altra Europa. Diamole il benvenuto a Tora Arnordsdottir. Ciao Tora, bentornata. Ciao, grazie. Ciao. So che oggi ti disturbiamo, sei lì a casa che fai la mamma, vero? E siamo, giusto. Siamo infilati anche noi appunto in questo tuo sabato mattina. Tora, cosa sta accadendo? Intanto c'è veramente in atto un tentativo di riforma della Costituzione in Islanda? Certo, è veramente un esperimento molto interessante, però non è così semplice. Sì, sono state elezioni ad ottobre per votare, un referendum per votare queste 25 persone per il Consiglio Costituzionale. Queste elezioni sono poi, c'erano meno di 40% del popolo che hanno partecipato a queste elezioni, e le elezioni sono state annullate dal Corte Supremo per... Si può dire, non c'era un inganno, niente di simile, non sono stati eseguiti in modo perfetto. Va bene. Quindi il Parlamento ha dovuto votare queste 25 persone per il consiglio, quindi il mandato è un po' debole. Ho capito, quindi già è un mandato che è nato male. Sì, un po', però è molto interessante seguire come hanno cominciato a lavorare ad aprile. Già lì, nelle prime settimane, hanno messo tutto sul web, si poteva seguire tutto quello che facevano, ogni idea, diciamo il ruolo del presidente. Loro dicono, ecco qui sul web, qui è la Costituzione com'è, qui ci sono delle idee, idea A, B, C, cosa vi piace e perché. E io come un cittadino posso mandare un commento dicendo a me piace l'idea C perché questo. Quindi una partecipazione diretta e che piace, nel senso che comunque c'è una risposta diffusa da parte della popolazione? Non so che dire diffusa... Sono molte le persone che rispondono? Appunto, cioè, non sono sicura se posso dire di sì, perché ovviamente qualche centinaia forse è tanto, perché non sono tutti che si interessano per questo lavoro, vogliono solo votare quando arriva il momento. Certo. Ma io direi sì, nel senso che tutto il popolo non è coinvolto nella politica, in tutto questo, no, è abbastanza diffuso, sì. Mm-hmm. Quindi insomma è un tentativo. Questa Costituzione, ricordiamo che la carta risale al 1944, l'anno dell'indipendenza dalla Danimarca, e sarebbe il primo tentativo di riformare la Costituzione, giusto? No, ci sono tanti tentativi. No, tentativi, ok, ci hanno già provato. Per quello che questo è così importante. Perché secondo la Costituzione il Parlamento, 2/3 dei deputati devono accettare la riforma, il cambiamento, poi ci devono essere elezioni e un nuovo Parlamento, 2/3 dei deputati del nuovo Parlamento lo devono accettare, e così ancora. Ma pensando che i criteri di elezione, d'elezione dei deputati, eccetera, si vuole cambiare, i deputati, i membri del Parlamento ovviamente pensano un po' a sé. Ho capito. Cosa cambia per me? E quindi è stato molto difficile cambiarlo. Ho capito. E poi adesso dobbiamo vedere, al fine luglio il Consiglio Costituzionale deve aver finito e non si sa ancora se presenterà un documento solo, oppure forse saranno 3 documenti e il popolo può scegliere in un referendum, ma non si sa ancora se ci sarà un referendum. Quindi è una situazione tutta in divenire, che noi continueremo a seguire nelle prossime settimane. Tora, tu da giornalista, insomma, sei una giornalista molto attiva lì in Islanda, in questo periodo su cosa stai lavorando? Stai seguendo qualche inchiesta particolare? Ma noi stiamo ancora lavorando, cercando di capire cosa è successo negli anni, si può dire dal 2000 al 2008, che ci ha lasciato in rovini. Certo. Quello stiamo seguendo ancora. Guarda, sono passati 2 anni e mezzo, ma c'è ancora... stanno uscendo fuori delle cose che è difficile credere per un popolo che credeva di essere così democratico, perfetto, avendo tutto, sai, dicevano ma guarda, questo capita solo in Africa. Ma insomma c'era un po' di snobismo nei confronti di tutte le altre nazioni, ma anche del resto d'Europa, senza dover andare in Africa, invece ci si è ritrovati con la crisi, e che crisi in casa, e quindi insomma un momento anche di riflessione collettiva. Tora, grazie davvero come sempre, ci ritroveremo in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo fatto un collegamento che era in tenda tra i geyser. È vero. Quindi noi ti troviamo anche nelle lande più desolate dell'Islanda, non preoccuparti. Ciao Tora, buon sabato. Ciao, grazie. Dico, grazie. Ciao. Europost-it. Whale watching in Islanda. Siete amanti della natura? Volete vivere una bella avventura in mare e vedere degli splendidi animali? partite per l'Islanda e fate whale watching, un tour in motonave per avvistare le balene. Potrete vedere non solo le famose orche, ma anche balenottere, megattere, per non parlare dei tanti delfini e addirittura la simpatica pulcinella di mare, che arriva in Islanda proprio in occasione dell'estate. La probabilità di avvistare questi animali è molto alta e le guide vi accompagneranno nei luoghi dove gli animali si ritrovano per osservarli, senza disturbarli però. Trovate tutte le indicazioni sul tour sul sito dell'ente del turismo islandese, visiticeland.com. Ist das ein unethisches Prinzip? Na komm, traut euch. Einer? Cedric? Das ist doch alttestamentarischer Quatsch. Beh, far vedere il cinema alla radio non è facile. Proviamo estrapolato qualche passaggio di un paio di video che stanno partecipando e che da oggi potranno essere visionati e votati dal sito che fra pochissimo vi darò, del Festival Multimediale delle Università e delle Scuole di Cinema dell'Unione Europea, lo Yulm Film Happening, dal 20-24 giugno qui a Milano. Sono una trentina di prodotti delle università europee, sono stati selezionati, verranno votati, verranno visionati, e il tutto per ragionare insieme su cos'è il cinema e su cosa sono soprattutto i prodotti multimediali che nascono all'interno dell'università, dove c'è tanta creatività e c'è tanta voglia e possibilità di sperimentazione. Per farci spiegare bene che cos'è questo Yulm Film Happening, abbiamo invitato il professor Gianni Canova, che è preside della Facoltà di Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Pubblicità e direttore artistico dello Yulm Film Happening, appunto. Buongiorno professor Canova. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, è una bella sfida questa, perché insomma andare in giro per l'Europa a selezionare i migliori prodotti dall'università vuol dire scandagliare un intero continente e immagino centinaia e centinaia di bei prodotti. Sì, per la verità siamo in un'epoca in cui le tecnologie ci consentono di non andare in giro per l'Europa, anche se mi sarebbe piaciuto, ma di far viaggiare sulla rete prodotti solo apparentemente immateriali, ma che comunque viaggiano attraverso i confini e le frontiere tradizionali. Noi abbiamo invitato le università e le scuole di cinema e di comunicazione di tutti i 27 paesi dell'Unione Europea a mandarci i prodotti migliori realizzati dai loro studenti o da loro laureati da non più di 2 anni. Abbiamo ricevuto tantissimi prodotti, direi da quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, e i migliori li abbiamo selezionati attraverso una commissione formata da critici, da studiosi, da professori di cinema, e sono da oggi, da questa mattina, votabili sul sito www.yulm.it. Abbiamo film corti, documentari che arrivano dalla Finlandia alla Slovacchia, dal Portogallo alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra, all'Italia, al Belgio, all'Olanda. Credo sia un quadro molto interessante di creatività, e credo sia giusto, almeno questo è il mio pensiero, la mia convinzione, che le università, anche di matrice umanistica, comincino a fare quello che le università, scientifiche fanno da sempre. Cioè l'università secondo me non è soltanto un luogo che deve trasmettere i nobilissimi saperi del passato, ma è anche un luogo in cui bisogna progettare e mettere a punto i linguaggi del presente e forse anche del futuro. Ah, assolutamente. E questo tentativo di mettere in network quello che di meglio avviene nelle università europee mi sembra un tentativo che va in questa direzione. Ma esiste un tratto europeo di questi prodotti? Ma sì e no, nel senso che evidentemente c'è molta attenzione al sociale, sono prodotti indipendenti che esprimono la sensibilità, lo sguardo della generazione che è o è appena uscita dall'università. Certo. Però poi c'è anche un'attenzione alla cultura dei generi, ci sono parecchi prodotti che si rifanno e che mostrano di conoscere bene la grammatica del thriller piuttosto che dell'horror, piuttosto che del noir. Ci sono anche un paio di prodotti che vanno nella direzione della commedia e che manovrano molto bene i linguaggi della commedia, sempre però con un legame molto forte o con il territorio di appartenenza, sì, o con la volontà di andare a indagare altri spazi. Per esempio, tra i filmati italiani che abbiamo selezionato c'è un documentario molto bello girato nelle favelas brasiliane. Cioè, è una generazione questa dei ragazzi che stanno nelle università adesso che è molto curiosa del mondo, che non si accontenta di stare dentro i piccoli confini delle piccole patrie in cui sono nati e cresciuti. Ma poi immagino anche per esperienza, insomma, che immergendosi in questi prodotti ci si rende conto che sono comunque un passo avanti rispetto a quello che ci viene proposto in televisione, per esempio, nel senso che comunque è una storia. Non c'è dubbio. Sia nei linguaggi che nei contenuti, che nel ritmo, che nella modernità. Nel ritmo e nel rapporto fra costo e qualità, perché questo è un altro elemento. Questi sono tutti prodotti a bassissimo costo, uh-huh, e sono prodotti a bassissimo costo che spesso non hanno nulla da invidiare dal punto di vista non solo creativo ma neanche tecnico, con prodotti molto più costosi realizzati da professionisti navigati. Certo. Infatti, a parte il concorso e i filmati in concorso che possono essere visionati sul sito della IULM, durante l'happening per tutta la settimana nel campus dell'università, dove arriveranno, perché la cosa interessante è che noi abbiamo invitato e ospitiamo a Milano gli autori di questi film, per cui arriveranno ragazzi da mezza Europa e saranno qui, si confronteranno con i giovani italiani, e durante tutta la settimana ci saranno conferenze, performance, e tutte le sere, e invito gli ascoltatori milanesi che avessero voglia di venire, sono graditi ospiti, tutte le sere c'è dalle 8:30 DJ set, ci sono, e poi ci sono proiezioni di corti, e poi ogni sera un grande film, si comincia, c'è un tema, il tema è quello della serietà, anche questo è un tema che io trovo abbastanza interessante di questi tempi. Assolutamente. C'è una frase di Ennio Flaiano che abbiamo scelto come esergo, che dice: la situazione è grave ma non seria. e tutte le sere c'è un film presentato, che ne so, giovedì 23 per esempio c'è, mercoledì 22 c'è Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che presenta i Serious Man dei fratelli Coen. Ecco, insomma, ci si contamina anche lì, no? E nelle conferenze, per esempio, il giovedì 23 c'è una conferenza di Vincenzo Cerami, premio Oscar e lo sceneggiatore di Roberto Benigni, ma subito dopo invitiamo e proiettiamo sul grande schermo i video virali che sono stati prodotti recentemente da gruppi di giovani nella campagna referendaria. Esatto, quindi insomma tanti generi, tanti linguaggi. Grazie davvero, professor Canova. Ricordiamo il sito www.filmhappening.yulm.it. Buon festival, professore, grazie. Grazie a tutti. Vi segnalo ancora le nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, dove stiamo caricando tutti i link, tutti i video, tutti gli audio relativi a questa puntata. Continua il nostro viaggio nell'altra Europa e continua passando per Riccione, in particolare al premio giornalistico Ilaria Alpi. Contribuire să acționăm în caz de accident nuclear. Contribuire. Te bagi în pământ, în cap în pământ. Măsuri de protecție, adăpostire, administrare pastile iodură de potasiu, evacuare. E quello che state ascoltando è un estratto audio del documentario Blackwater, una delle 9 inchieste giornalistiche realizzate tra Italia, Romania e Bruxelles, che fanno parte del progetto Est, cittadini contro le mafie, nell'ambito della 19ª edizione del premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi. È stata aperta una finestra molto importante per parlare di mafia, in particolare il rapporto tra Italia, resto d'Europa e Italia e Romania nel quadro delle politiche europee. Con noi c'è la curatrice dell'intero progetto, diamo il benvenuto a Michela Monte. Ciao Michela. Salve a tutti. Ciao. Un lavoro lungo, perché ci siamo sentiti che stavi partendo proprio per la Romania qualche mese fa per realizzare una di queste inchieste. Un lavoro lungo che segue il filo dell'inchiesta giornalistica. Infatti questa, l'anima di questo progetto, e grazie all'associazione Ilaria Alpi, che ricorda Ilaria Alpi, chiede giustizia e verità, ma anche apre degli spazi importantissimi di approfondimento e di scambio proprio attraverso l'inchiesta giornalistica, che ci ha guidato dall'Italia alla Romania fino a Bruxelles sul filo del traffico dei rifiuti, sulla cittadinanza attiva, ed ecco su quella che abbiamo lavorato con Cosmin in Romania, paese comunista, e di questo magari parlerà più dettagliatamente lui. Comunque noi abbiamo parlato delle infiltrazioni della criminalità organizzata, dando i volti alle vittime, perché quando si parla della nuova mafia SPA si rischia di parlare di riciclaggio oppure di corruzione senza mai avere sott'occhio chi sono le vittime. Quando si parla di riciclaggio non ci sono solo i soldi, la lavanderia, c'è anche un'impresa che chiude, un dramma personale, una denuncia magari non ascoltata da nessuno, ed è lì che arriva l'inchiesta giornalistica, in Italia come in Romania. E in Romania tu hai incontrato Cosmin Barzan, che è qua con noi. Lui dirige un centro di educazione civica, di educazione alla legalità. Ciao Cosmin, benvenuto all'Altra Europa. Benvenuto, ben trovato. Grazie a te. Un lavoro importante, di fatto di cosa si tratta il tuo centro, come lavora e dove opera? Sì, io sono il presidente di un'associazione che si chiama il Centro per Risorse Civiche. Sì. Che si trova a Constanza, in Romania, Constanza, sul fianco del Mernera. E quindi proprio un centro nato per fare così, per smuovere un po' l'opinione pubblica, per ricostruire una coscienza civile. Esattamente, e per una cittadinanza attiva. Ecco, e con questo Blackwater cosa avete raccontato? Allora, io ho fatto il guido per Michela. Sì. Abbiamo fatto un giro per trovare agenti e autorità nella città di Cernavodă, che ha una centrale nucleare. Ancora attiva? La centrale nucleare di Romania. Ancora funzionante? Sì. Uh-huh. Due reattori. Quindi avete cercato, Michela, di raccontare cose che non erano mai state raccontate? Innanzitutto di capire come mai la comunità locale è esclusa completamente anche dalle normali sensibilizzazioni che si fanno sulla sicurezza. I cittadini di Cernavodă, come si vede nel video Blackwater, quando in caso di un incidente nucleare non hanno gli strumenti e le informazioni neppure per capire come muoversi. È stato denunciato da Wikileaks questa carenza di misure di sicurezza in caso di incidente, ma già i media rumeni avevano parlato anche di un grave pericolo per la salute pubblica, e allora i cittadini chiedono risposte, quei pochi che le chiedono, perché i cittadini rumeni, a quanto abbiamo visto noi, non sono abituati a chiedere perché sono abituati a non avere risposte, quindi neanche la domanda viene spontanea. E dalle inchieste giornalistiche, anche lì un altro strumento in Romania molto importante, sono emersi i rischi per la salute per le emissioni di trizio. Allora i giornalisti hanno chiesto delle risposte ancora una volta all'ente statale che si occupa della gestione della centrale, risposte che in 10 anni non sono mai avute. Domande poste anche dal sindaco di Cernavodă, che chiede maggiori investimenti per lo sviluppo della comunità locale. La città di Cernavodă è cresciuta intorno alla centrale nucleare, e nonostante la centrale nucleare, ma senza avere nessun tipo di risarcimento rispetto al rischio che corre ogni giorno. E quindi se vai a Cernavodă c'è soprattutto la centrale, lo sviluppo di altre possibilità è precluso. È ridotta, certo. Le istituzioni locali si battono proprio per far capire all'ente governativo che ci sono anche le persone, non solamente la centrale, che poi adesso dovrà sviluppare anche un terzo e quarto reattore. Ed è Cosmin proprio che ci ha aiutato a entrare in contatto, perché già arrivare con una telecamera non era facile, certo, insomma c'è questa sorta di chiusura. Cosmin, ma la tua attività quotidiana quindi è quella di entrare nelle scuole, quella di come fai a creare questa nuova coscienza civile nella popolazione? In Romania la maggiorità dei volontari sono i giovani. Ok. Cerchiamo di trovare un nuovo esempio per loro, un nuovo modello della vita. Sì. Per loro. Sì, allora ci... Quindi insomma fare nuove proposte, proporre nuove opportunità, proporre alternative, sì, credo sia questo un po'. Alternative di progetti, alternative di attività sociali, E poi attività di volontariato, di aiutare i bambini, tutto questo. Un centro, praticamente abbiamo un centro di volontariato, certo. E in più abbiamo anche un centro per informazioni e consigli per i migranti. Quindi fare comunque una nuova cultura, sia dell'integrazione, ma anche appunto di educazione a una nuova cittadinanza. Cosmine, complimenti davvero per la tua attività, in bocca al lupo per il centro, a te e a tutto il tuo gruppo di lavoro. E Michela, ricordiamo che tutte queste inchieste si possono guardare dal sito estproject.eu, che carichiamo direttamente il link anche dalle nostre pagine in Facebook, in modo che si possa appunto vedere l'intero lavoro. Da Romania, e ringrazio anche Flair Network per la collaborazione, loro si occupano della sensibilizzazione sulle mafie a livello europeo. Grazie davvero Michela, e complimenti a te e anche a tutti i tuoi collaboratori per questo bellissimo lavoro. Ciao e buon sabato! Buon sabato a tutti! Ciao ciao! Europost-it. Documentary in Europa a Bardonecchia. Dal 5 all'8 luglio la città di Bardonecchia ospita una grande rassegna di documentari girati da registi affermati ed esordienti provenienti da tutta Europa, che quest'anno è alla sua 15ª edizione. Insieme ai registi si discuterà dello stato dell'arte del documentario in Europa, ma si potrà anche partecipare a laboratori, seguire lezioni o semplicemente guardare qualche bel film. Si può partecipare anche se non si è realizzato un documentario e si vuole solo fare da spettatori. Bisogna iscriversi però, entro il 25 giugno. Trovate il programma e le informazioni su docineurope.org. Diritti umani nelle carceri europee, questo è un po' il tema scelto da Euronet questa settimana. Vi ricordo il link di questo network di radio europee, euronet.eu. Tanti approcci diversi a notizie comuni per andare a vedere i vari punti di vista anche in lingua originale, in modo che ogni nazione possa portare il proprio contributo. I diritti umani nelle carceri europee perché? Perché due membri del Parlamento europeo hanno di recente chiesto azioni urgenti per proteggere i diritti umani nelle carceri dell'Unione Europea, e quindi la richiesta, la consegna è un po' quello di fotografare anche brevemente, anche se il tema è assolutamente vasto e complicato, però insomma volevamo veramente avere un assaggio, di una fotografia di quella che è la situazione attuale in Europa. E per farlo abbiamo invitato Patrizio Gonnella, che è presidente dell'associazione Antigone, associazione non governativa che si interessa da anni della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. Ciao Patrizio, benvenuto all'Altra Europa. Grazie a voi. Credo sia complicato, no, fare una fotografia delle carceri a livello europeo, nel senso che già è complicato farla per quelle italiane, mi immagino, allargando il raggio. Sì, però diciamo ci possiamo provare. Diciamo, in primo luogo l'Europa sta cercando di darsi delle regole comuni. Lo ha fatto nell'ambito più vasto del Consiglio d'Europa, dotandosi di regole penitenziarie europee, lo ha fatto nel 2006, lo ha fatto anche prevedendo dei meccanismi di controllo e di supervisione. Infatti ormai da più di 20 anni opera il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, che può visitare, ispezionare senza preavviso le carceri di tutti e 47 i paesi del Consiglio d'Europa. Ecco perché, esatto, è il Consiglio d'Europa in questo caso, vero, che ha... Consiglio d'Europa è l'organismo storico nato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, esatto, che ha, diciamo, nella sua mission quella di diciamo osservare, tutelare e promuovere i diritti umani e quindi anche i diritti delle persone in carcere. Però devo dire che di recente, proprio il 14 di giugno, quindi parliamo di 4 giorni fa, sì, l'Unione Europea, su indicazione del Parlamento, ha adottato le prime linee guida in materia di questione carceraria e di contenimento del macro problema del sovraffollamento. Ecco, è questo il problema oggi? Beh sì, è questo, è un problema che, come sappiamo, riguarda l'Italia, però è un problema che in realtà riguarda, diciamo, molti altri paesi europei. Diciamo c'è un trend comune alla crescita della popolazione detenuta. Noi in Italia abbiamo un problema ulteriore, cioè quello di spazi non sufficienti rispetto alla crescita dei detenuti, cioè abbiamo il tasso di affollamento maggiore in Europa, nell'Europa dei 27, parliamo dell'Europa dell'area UE, solo la Bulgaria sta meglio di noi, cioè in Italia abbiamo più o meno 100 detenuti che diciamo in, cioè 150 detenuti per 100 posti letto, okay, e quindi un tasso molto difficile da gestire nella quotidianità della vita detentiva. Si pensi che invece in un paese come la Germania ci sono 85 detenuti per 100 posti letto, e lì sono stati fatti assolutamente sono stati fatti investimenti appunto per le misure di prevenzione ed esterne, ma anche per la costruzione di nuove carceri. La Germania è un paese che si è mosso in controtendenza, poi già alla fine c'è sempre un link fra la condizione economica generale e diciamo la questione carceraria penale. La Germania, che ha una maggiore stabilità economica, probabilmente ha avuto una minore necessità di imprimere svolte di natura più repressiva, e quindi negli ultimi 10 anni in Germania i detenuti sono addirittura diminuiti, mentre da 73.000 a 69.000, e in Italia invece sono aumentati da 53.000 a 68.000, un trend più o meno opposto. E in Italia, diciamo, questo lo sappiamo, ovviamente i tempi lenti della burocrazia non consentono l'adeguamento del parco edilizio alla necessità diciamo di vita quotidiana e dei posti letto. D'altronde è molto difficile riuscire, diciamo, a costruire 6, 7, 8, 9 mila posti letto nuovi l'anno. Forse bisogna cambiare anche la politica penale. Assolutamente. Patrizio, una curiosità, scusami. Stavo leggendo che in Norvegia ci sono liste d'attesa per il carcere? Sì, la Norvegia, diciamo, da alcuni anni ha adottato una politica penitenziaria a tutela della dignità della persona e dei diritti umani, e dicono che mai ci dovrà essere un detenuto in più rispetto ai posti letto, e quindi se per caso questo dovesse accadere, perché c'è per esempio un numero di arresti diciamo esorbitante, l'amministrazione penitenziaria si fa carico di decidere chi aspetta a casa la esecuzione della sentenza. Ovviamente vi sono una serie di criteri, partendo dai detenuti meno pericolosi e dai reati meno gravi, e quindi liste d'attesa previste per legge. Ecco, alla domanda come sono le condizioni nelle prigioni europee, tu hai dato una risposta, ci sono prigioni migliori delle altre? So che sembra una domanda paradossale, però nasconde una verità. Non è paradossale, perché anche in una situazione di questo genere, di diciamo, come posso dire, di crescita della popolazione detenuta, ci sono paesi che hanno diciamo mantenuto alti i livelli di tutela dei diritti interni, e mi riferisco soprattutto all'area del centro nord Europa, dove appunto c'è una tradizione rispetto soprattutto ai detenuti meno pericolosi, di prigioni aperte, di occasioni di lavoro, di attività diciamo del volontariato molto presenti all'interno delle carceri, e invece altri paesi dove queste condizioni purtroppo negli ultimi anni sono peggiorate. L'Italia aveva e ha una delle migliori leggi europee, quella del 1975, una delle più avanzate, una legge molto copiata anche in Spagna, anche in Germania, solo che ora purtroppo le condizioni stanno lentamente deteriorando, ed è un dato significativo a riguardo. Non è un caso che per il sovraffollamento e il numero minimo di metri quadri a disposizione per detenuto, diciamo sotto i 3 metri quadri, l'Italia insieme alla Russia sono stati gli unici due paesi condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani. E questo già, insomma, credo sia più che significativo. Grazie davvero a Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, osservatorioantigone.it, il sito ufficiale per tutte le informazioni. Ciao Patrizio, grazie per, grazie a voi, per aver giornata. Accettato il nostro invito. E con Patrizio chiudiamo la puntata di oggi. Ricordo facebook.com/l'altra Europa per tutti i link relativi agli argomenti toccati. Noi ci ritroviamo sabato prossimo con l'Altra Europa, io sarò in onda anche domani alle 17 con Mine Vaganti, mentre martedì sera, vi ricordo, ci sarà la notte prima degli esami, quindi una 3 ore di diretta per raccontare l'esame di maturità. Un grazie a Claudia Carusi che con me ha scritto la puntata, ha collaborato Margherita Ina, Viola Bottoni, Alessandro Balia in assistenza, in regia Paolo Corleoni. Questa è tutta la squadra dell'Altra Europa. Ciao e grazie.